quelli come noi che suonano di notte. Che nuotano di notte. E tu vuoi. Come no, come no, come no, come no.